Il ministro Calderoli non ci sta. Avrò anche una faccia da schiaffi, ma sono stufo di prendere sberle. E ciapa ciapa ciapa, e ciapa ciapa ciapa, e ciapa de chi, e ciapa de là, e ciapa il sotte falbala, te fambala, te mangi tu scos, te fambala senza biscos, te vale, te vale, te vale tu ni bot, ma alla fine te sei sempre viot.